In collegamento con Raffaella Mesiti per parlare delle romane. Le romane che sarà in scena sia il 6 che il 12, ma ce lo racconta lei. Intanto ben ritrovata su queste frequenze, è passato un po' di tempo, Raffaella. Sì, è vero. Ciao a tutti, ciao Federico, e sono molto contenta di esserci di nuovo. Evviva! Ma possiamo già anticipare che ci sarai pure la settimana prossima con una performance? Ma sì, dai, così uno si organizza e si sintonizza e ci ascolta. Okay. Sì, faremo un mini live per la radio martedì 11 luglio. Benissimo. Allora, le... tutte e quattro. Tutte e quattro, per cui sarà in formazione completa. Sì. Allora, le romane, per chi ci ascolta, ce lo racconti per sommi capi? Certo, le romane è un piccolo progetto che ormai comincia ad avere la sua bella età e insomma ultimamente i progetti longevi vanno, come dire, riconosciuti perché non è facile far durare un gruppo, no? Comunque una situazione, un progetto artistico. In questo caso devo dire stiamo andando avanti dal 2008, quindi insomma comincia a essere un bel po' di tempo, e la formazione attuale le voglio nominare tutte: sono Annalisa Baldi alla chitarra, Desiree Infascelli alla fisarmonica e al mandolino, e Arianna Gaudio, che è la nostra meravigliosa attrice, la voce di Roma nel vero senso della parola, e poi ovviamente ci sono io che canto. E è una formazione tutta al femminile, cerchiamo di fare un percorso, diciamo, usando dei temi principali che abbiamo scelto, come appunto l'amore o le serenate, ecco, il cinema, perché se si parla di Roma bisogna parlare anche di cinema, e il carcere, perché è un tema ricorrente nella tradizione della canzone romana. E facciamo un percorso che in realtà passa attraverso le canzoni, ma anche attraverso i racconti, quindi attraverso autori come, che so, Trilussa, Belli, o Magni, no? Nel caso del cinema abbiamo preso delle cose dalla Tosca, o Pasolini addirittura, che non era romano ma che ovviamente a Roma ha dato tantissimo. E quindi è questo, è uno spettacolo molto carino dove ci sono appunto canzoni e anche brani recitati molto molto intensamente, molto, in modo molto divertente, anche da Arianna, e funziona, piace, devo dire, da quello che ci dicono fa stare bene chi insomma viene a vederci, a sentirci, e questo ovviamente ci riempie di gioia. Senti, di tutto questo materiale di repertorio da varie teste, da vari cuori e da varie penne, com'è stato l'assemblaggio? Ma guarda, ci siamo viste appunto un bel po' di anni fa ormai, e io e Arianna abbiamo cominciato a scegliere, devo dire, in base ai testi e non in base alla musica, questo per quanto riguarda le canzoni. Sui testi Arianna è stata molto autonoma, e poi ci siamo confrontate, lei mi ha sottoposto delle cose, abbiamo cercato poi di mettere in condizione. Io per quanto riguarda le canzoni ho scelto essenzialmente in base alle storie che volevo raccontare, infatti alcune canzoni che magari sono molto famose non ci sono, però quelle che ci sono, oltre ad essere chiaramente molto tradizionali, molto conosciute appunto dai romani o comunque da chi apprezza la canzone romana, sono stati affrontati esclusivamente dal punto di vista testuale. Cioè la musica è molto essenziale, molto, mi verrebbe da dire, delicata ma non moscia. Delicata perché con due strumenti accompagnatori, appunto la chitarra e la fisa, non c'è nemmeno la necessità di fare appunto chissà quale chiasso, no? Ciononostante l'energia non manca, quindi la cosa che poi evidentemente piace un po', rinnova in noi sempre l'amore verso questa cosa, che comunque c'è un sacco di energia, ma non c'è, come posso dire, non c'è il chiasso, ecco, non c'è chiasso, c'è sicuramente molta energia ma non c'è chiasso, e questo ci piace. Però ecco, le canzoni sì, sono state scelte con moltissima attenzione al testo, alla storia da raccontare, questo sicuramente sì. Senti, si è evoluto, è cambiato, si è modificato nel tempo? Sì, la formazione innanzitutto si nasceva con, al posto di Desiree Infascelli c'era Ludovica Valori, bravissima trombonista e fisarmonicista, e poi appunto è arrivata Desiree, anche Arianna è entrata in un secondo tempo, ma quasi subito, diciamo nell'arco del primo anno di vita io ho avuto proprio l'esigenza di mettere dentro una parte, ripeto, testuale, essendo quella la parte che a me interessa di più, perché non volevo che rimanesse circoscritta esclusivamente alle canzoni, se no faceva subito parcheggiatore, no? Stornellatore, quello non mi interessava, ma poi sinceramente certo. Non ho il physique vocale, come dire, adatto, e quindi sì, si è evoluto in questo senso. Poi in realtà da un po' di anni la formazione è sempre questa, e devo dire, squadra che vince non si cambia, perché io sono molto molto felice, e ogni volta è una veramente, non mi disamoro mai di salire sul palco con quelle altre tre facce da schiaffi, quindi è bellissimo. Senti, ci racconti anche di questi due prossimi appuntamenti? Assolutamente sì, intanto grazie per l'opportunità di farlo sapere, perché ormai è la cosa più importante. Dunque il 6 luglio, cioè dopodomani, siamo ospiti di questo piccolo festival che si chiama Piccolo Festival delle 10 Notti, organizzato da Lucio Villani, che è un bravissimo contrabbassista e che ha fatto lo sforzo di riunire insieme appunto tante piccole formazioni e fare questa 10 giorni di rassegna, e saremo sotto Castel Sant'Angelo, che tra l'altro per noi che apriamo lo spettacolo tra l'altro con la Tosca di Luigi Magni, tu immagina, è proprio un luogo perfetto, e siamo appunto sotto Castel Sant'Angelo a Lungotevere Castello, più o meno all'altezza della giostra che si intravede sul Lungotevere quando si va, diciamo, verso Trastevere. Sì. Alle 21:30, perché alle 20:30 ci sono delle letture, tra l'altro nel nostro caso, se non erro, c'è una lettura amatissima di Toni Morrison, che è stato un romanzo meraviglioso, quindi prima ci sarà una lettura di parte di questo romanzo, e poi alle 21:30 ci dicono abbastanza puntuali comincerà il concerto, che dura circa un'oretta e un quarto, insomma poi dipende da quanti bis faremo. E questo è per il primo appuntamento. Il sì. Secondo appuntamento invece è un'altra piccola rassegna alla terrazza dell'Hotel Diana il 12 di luglio, che è mercoledì della prossima settimana, e con una formula diversa, con l'aperitivo, una terrazza magnifica vicino a Piazza Vittorio, e poi quando poi ci vedremo per fare il live vedremo tutti i dettagli, certo. Però diciamo, per chi non avesse la possibilità di venire giovedì, ci sarà appunto questa seconda possibilità il 12, e ci farà molto piacere. È una formula un pochino diversa, arricchita appunto da una parte, diciamo, enogastronomica, che non guasta, insomma, quindi diciamo c'è l'upgrade alla parte conviviale gastronomica. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento del 6 a Castel Sant'Angelo alle... Sì? Scusa, 21:30 comincia la vostra performance. Sì. Esatto. E poi c'è l'appuntamento dell'11 in radio, in cui parleremo anche di sì? quello, l'appuntamento del giorno dopo, il 12, sempre con le romane. E a questo punto, nel salutarci, ci dai anche tutti i riferimenti web per saperne di più su di voi. Allora, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Raffaella Misiti e le Romane, dove in genere appunto noi postiamo le nostre attività, e per cui chi vuole può mettere like alla pagina. Siamo tutte individualmente, tranne Desiree che si è emancipata da Facebook, su Facebook individualmente, e basta, insomma, questo è. C'è un sito che in realtà però adesso è in corso di ristrutturazione, che è appunto raffaellamisitedelleromane.it, se non sbaglio, e basta, quindi. Però direi che sicuramente la pagina di Facebook ormai è il veicolo più veloce per entrare in contatto immediatamente, direi. Raffaella, un abbraccio e alla settimana prossima. Grazie a te, grazie a tutti, buon ascolto, buon proseguimento, ci vediamo e ci sentiamo presto. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.